La campagna grazie alle ville abusive. Questo è il titolo della Stampa. Il governo prepara un decreto per bloccare le demolizioni ordinate dalla Procura. E Caldoro pare che stia mettendo a punto un qualcosa per appunto bloccare questa demolizione. Tra l'altro la Stampa fa ricordare che l'abusivismo, soprattutto in campagna, è un problema gravissimo. Pensate che a San Cipriano d'Aversa, terra simbolo dei casalesi, ci sono 1380 abitazioni abusive. Siamo a San Cipriano d'Aversa, 1380 abitazioni abusive. Bene, sappiate che sono più le abitazioni abusive della sola San Cipriano d'Aversa di quelle di tutta la Francia intera. Questo è il problema dell'abusivismo in Italia. Ci sono più abitazioni abusive nella sola San Cipriano d'Aversa, che è un comune piccolo, che nell'intera nazione della Francia. A proposito di Francia, visto che siamo alle segnalazioni conclusive, dalla prima del secolo XIX Nicolas Sarkozy ha deciso, in un discorso alla banlieue parigina, di fare qualcosa di duro contro chi bigia a scuola. Tuo figlio bigia a scuola e che facciamo noi? Vi togliamo l'assegno familiare ai genitori dei ragazzi che marinano la scuola. La discussione che in Francia sta facendo molto discutere: bigi la scuola, assegni familiari stop, soluzione repressiva da parte di Sarkozy, che ha annunciato questa misura. Vabbè, magari fa poco discutere perché è in Francia, ma certo, fosse in Italia farebbe molto, molto più discutere. E infine, per concludere, c'è moltissimo, moltissimo della vicenda sportiva e di Totti. Eccolo là, Totti, il pupone, con i suoi ritratto su tutti i giornali, con il pollice destro, il pollice sinistro versi, perché faceva questo gesto. Attenzione che rischiate la Serie B ai laziali dopo il 2-1 della Roma. Non è stato squalificato. Vi chiedevamo, secondo voi, doveva essere squalificato? Questo è il nostro sondaggio di oggi. Parliamo un po' di sport, ma parliamo anche di violenza nel calcio. Totti ha fatto un'intervista che andrà in onda questa sera alle Iene, nella quale con la sua solita ironia ha detto: ma no, mi indicavo la marca delle scarpe. Certo, però in realtà nei giorni scorsi ha chiesto scusa. È una vera ingiustizia, ora lui dice al Messaggero, cioè pago la multa perché ha preso una multa, 20.000 euro, pago di più perché sono romanista, in realtà gli è andata bene, insomma rischiava addirittura una squalifica. Il giudice grazie al derby, questo sul giornale, derby salvi Totti e i tifosi, c'è anche questa vicenda sui tifosi. Insomma, Totti andava squalificato secondo voi? Alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati, siamo in diretta, siamo sempre qui, siamo sempre con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Siamo sempre col vulcano alle prese. Mi sembri Pippo Baudo stamattina, ma hai fatto una presentazione degna di Sanremo, guarda. C'è un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio dicendo: non dite niente dello stato del vulcano. Tutti che se l'hai fatti, tutti. E non dice il nome, non lo scrive, non ha il coraggio di scriverlo. E già fa la scioculla. Esattamente, solo noi. Oppure come Peter. No, ce lo siamo persi, Peter. Ecco, la pronuncia esatta. No, io veramente vorrei parlare con questo che ce lo pronuncia così. Si apre un così concorso, mandateci file audio, registratelo così e mandateci. Dovremmo nei prossimi giorni trovare qualche altro termine con i quali far sbizzarrire Alessandro e i nostri ascoltatori, farci trovare le pronunce corrette. Insomma, un gioco molto divertente. Allora, ritorniamo a parlare di questo temibile vulcano, Ejafjallajökull. Perché? Perché ci ha fatto riscoprire in Italia una buona abitudine che molti automobilisti italiani, e non solo, in tutta Europa per la verità, avevano scoperto già da tempo. È un tema che abbiamo già affrontato a Soldi e Dintorni: come non tornare allora a parlare di carpooling, cioè accordarsi per partenza, destinazione e orari e dividersi fra bravi automobilisti il viaggio in macchina, appunto con altre persone, dividendo ovviamente tutte le spese. Perché ne torniamo a parlare? Semplice, perché mai come in questi giorni è nata l'esigenza di trovare un mezzo alternativo agli aerei. Avete sentito anche nel nostro radiogiornale le testimonianze di chi è rimasto ostaggio di aeroporti e di altre città in questi giorni di caos nei cieli, e ovviamente si sono sperimentate e tentate tutte le soluzioni possibili per tornare a casa, come hanno fatto per esempio anche i nostri Giorgia Scaturro e Sergio Nava. Tra l'altro, nell'urgenza di dover rientrare c'è chi non ha badato a spese e ha utilizzato persino il taxi spendendo delle cifre folli. Abbiamo letto anche di un gruppo di 10 milanesi, non so se sia una leggenda o verità, che dalla Norvegia più a nord ha preso questo gruppo un taxi per tornare appunto a Milano, oltre 4.000 chilometri, 14.000 euro stimati di conto. E poi, insomma, tante altre vicende di questo tipo. E allora in molti invece hanno scoperto un modo molto più economico per ritornare nella città di origine, quella cioè di dividere l'automobile con qualcuno, e questo ha fatto in modo che un portale italiano del carpooling, il sito roadsharing.com, abbia visto letteralmente l'esplosione della sua attività insieme a quella del vulcano. Il fondatore del portale è Daniele Nuzzo. Nuzzo, buongiorno e benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Certo che sarete stati tra i pochi a sperare che l'eruzione del vulcano Ejafjallajökull non si fermasse. No, in realtà da venerdì abbiamo iniziato a osservare questa cosa, che improvvisamente il server che ospitava il sito aumentava le visite, aumentavano continuamente. Cioè voi non vi eravate neanche accorti di quello che stava accadendo in Islanda, che invece avevate notato che stava esplodendo il vostro portale. Leggevamo, ascoltavamo le notizie, ma il server era tranquillo. Poi da giovedì, venerdì ha cominciato ad accelerare, siamo arrivati a qualcosa come l'800% delle visite. E la cosa interessante è che sono stati proprio i viaggiatori negli aeroporti che tramite cellulari, notebook, insomma, i portatili cominciavano a rimbalzarsi e fare un passaparola per segnalare i passaggi su questo sito. Il servizio è totalmente gratuito, quindi anche questo aiutava, e questo ha portato a un passaparola che ha portato in tutta Europa il propagarsi del road sharing come termine da abbinare alla parola get me home, per tornare a casa. Certo, e tra l'altro quindi un grande utilizzo peraltro per arrivare a voi in questi giorni di emergenza anche dai social network, quindi Twitter, Facebook. Una volta tanto non è stato fatto un utilizzo negativo, come molti sostengono spesso, di questi social network. In questo caso invece è stato molto utile il passaparola che passa appunto proprio attraverso i social network. Nuzzo, da quanto esiste roadsharing.com? Ben prima dell'emergenza, naturalmente. Sì, il portale esiste dal 2008, nasce chiaramente con l'intento di soddisfare, diciamo, prima di tutto il pendolariato, quindi gli spostamenti casa-lavoro, e fin dalla sua uscita in Italia si è affermato, ma anche nel resto d'Europa, un po' alla volta sta propagando perché è tradotto in 5 lingue, quindi permetteva anche a stranieri di organizzarsi. E poi nel periodo estivo di solito ha sempre un aumento dovuto invece all'autostop, a qualcosa più legato alle vacanze. Nel caso dell'emergenza è stata proprio la chiave di volta che ha permesso di unire Twitter, Facebook, e un punto dove scrivere la propria esigenza di viaggio. Mm-hmm. Le persone l'hanno fatto e hanno trovato spessissime soluzioni. Noi abbiamo registrato migliaia di iscrizioni nel giro di poche ore, ma soprattutto decine di migliaia di contatti fra gli utenti. Persone che per un'offerta hanno ricevuto 30 contatti nel giro di mezz'ora. Perfetto, quindi insomma davvero questa emergenza del vulcano Ejafjallajökull ha fatto veramente conoscere modalità anche di viaggio che per la verità molti non avevano mai sperimentato, perché effettivamente il carpooling è una modalità di condivisione delle spese per chi viaggia, soprattutto per i pendolari, che stiamo conoscendo da poco tempo. Noi abbiamo dedicato anche altre puntate a questo tema e lei se lo ricorderà, Nuzzo, perché ci ha raccontato prima, l'aveva ascoltata. Abbiamo raccontato per esempio l'esperienza di postinauto.it, ma anche del carpooling Lombardia, che ha trovato il supporto delle amministrazioni locali. Poi c'è anche l'iniziativa di Autostrade per l'Italia, che riguarda la A8 e la A9, dove gli automobilisti che occupano in quattro un'auto hanno uno sconto del 50% sul pedaggio autostradale. Ecco, diverse iniziative a questo punto. Quali sono le differenze, per esempio, tra la vostra e le altre? Voi ho visto che siete ben, come dire, organizzati anche dal punto di vista internazionale. Sì, RoadSharing nasce subito in 5 lingue perché ha l'obiettivo di essere una piattaforma aperta. La caratteristica è totalmente gratuita, quindi questo, ci sono altre piattaforme che chiedono un contributo, chiedono un abbonamento. RoadSharing è gratuito e questo è servito molto per diffonderlo fra i giovani e non, perché ripeto, nel periodo estivo abbiamo decine di famiglie che fanno magari uno spostamento di vacanza e contribuiscono, oppure persone proprio durante la settimana lo usano per lo spostamento. La caratteristica magari è un'integrazione piuttosto forte con i social network. Noi siamo degli sviluppatori, degli informatici, quindi abbiamo puntato a quello che sappiamo fare. Integrarlo con Facebook e Twitter è quello che permette di facilitare proprio l'incontro fra domanda e offerta. Ecco, ci spiega esattamente come funziona. Allora, intanto ci ha spiegato che l'iscrizione è gratuita, è come per la maggior parte dei siti di carpooling, e si lasciano i propri riferimenti, ovviamente tutelati completamente dalla legge sulla privacy. Uno, recandosi sul sito, può fare una ricerca e vedere i passaggi già presenti. Abbiamo usato un sistema di ricerca che si appoggia a Google, questo permette di fare ricerche proprio geografiche, quindi posso mettere un indirizzo, una città, decidere quanto essere generico e trovare quindi passaggi disponibili. Vedendo poi la scheda posso vedere chi è l'utente, vedere qual è la sua immagine, vedere se c'ha dei feedback e inserire eventualmente una richiesta. In alternativa, se non trovo il percorso che mi interessa, posso inserirlo e fare in modo che gli altri mi contattino. No, stavo pensando all'aspetto che ci ha detto, si può addirittura, come dire, individuare e avere subito una rapida conoscenza anche della persona eventualmente con la quale possiamo interagire nel corso del viaggio, perché chiaramente salire in macchina con degli sconosciuti a volte può essere anche un po' difficile per alcune persone che vogliono, magari perché interessati, approcciarsi a questa modalità di condivisione delle spese. Ecco, lì però avete anche il sistema del feedback sulle, sì, sui vostri utenti. Abbiamo sviluppato anche un metodo che permette di scambiare messaggi fra gli utenti senza dare la propria email. In pratica io, nel momento che mi iscrivo, lascio la mia email, ma il sistema non la farà mai vedere all'altro utente e sarò io a decidere il momento in cui voglio dargli, diciamo, dei riferimenti personali, come un telefono e un'email. Quindi il sistema fa in qualche modo da tramite per tutta la parte iniziale della comunicazione. Noi lo consigliamo anche proprio come regola, prendere i primi contatti attraverso il sistema e poi soltanto nel momento che uno ha in qualche modo accertato l'altra persona chi è, dare dati personali. Mm-hmm. Cosa che devo dire, in questi giorni di emergenza i turisti hanno fatto un po' il contrario, cioè avevano talmente fretta, sì, che davano immediatamente telefoni o cose perché erano in aeroporto, volevano essere contattati. Ecco, magari cerchiamo subito di scoraggiare questa pratica. È ovvio che uno stato di emergenza implica anche questi aspetti, però magari da questo punto di nella vista facciamo un po' di attenzione. Nella pratica normale serve una procedura, appunto, certo, controllo, di verifica. Qualora capitassimo in qualche disavventura con qualche automobilista che non ci piace particolarmente, possiamo segnalare anche a chi gestisce il portale, quindi a voi, Nuzzo? Assolutamente, c'è proprio una sezione feedback ben visibile sulla destra, molto accessibile, che permette di mandarci immediatamente segnalazioni su un uso improprio della piattaforma, comportamenti scorretti. Devo dire, la cosa piacevole, perché uno scopre che il comportamento a volte è meglio di quello che uno si può aspettare, in questi due anni di attività non sono arrivate nessune segnalazioni se non una persona che ha cercato di fare per due volte pubblicità. Ecco, e che è stato respinto al mittente, appunto, con grande eleganza. Però, insomma, questo ci fa piacere, perché lo spirito che anima un'attività di questo tipo è di tutt'altro, di tutt'altra natura, per cui speriamo che i buon temponi se ne tengano davvero alla larga. Ho visto sul sito che avete anche degli eco partner, Nuzzo, chi sono? Sì, gli eco partner sono, essendo appunto gratuito, abbiamo fin dall'inizio cercato di cercare appoggio, passaparola e comunicazione da parte di enti, associazioni no profit che volevano in qualche modo dare rilievo alla cosa. Attualmente sono province, molto spesso sono comuni che decidono di promuovere presso la cittadinanza il servizio in modo totalmente gratuito. C'è stata in realtà anche un'azienda, grandi aziende nazionali che l'hanno promosso, o anche dei portali tipo Genitori No Smog, che è un'associazione di Milano, o altre associazioni non profit che proprio vogliono promuovere una mobilità sostenibile e ci danno visibilità sui loro siti. Benissimo, Nuzzo, io devo salutarla perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma avete isolato quello che è successo in questi giorni, nel senso quante persone attraverso la modalità del carpooling è riuscita a ritornare in Italia, magari utilizzando proprio il vostro sito, a prescindere dall'esplosione dei contatti che avete avuto in questi giorni di emergenza? Un conteggio ancora non l'abbiamo fatto, abbiamo registrato i feedback delle persone, ci sono arrivato qualcosa come più di un migliaio di ringraziamenti per una soluzione trovata. Benissimo. Mi immagino che qualcuno in più non ci avrà ringraziato, ma abbiamo comunque trovato qualche modo. Molto bene, molto bene. Grazie a Daniele Nuzzo, fondatore di rossharing.com. Buon lavoro, ci risentiamo presto. Grazie a voi. Buona giornata. Alessandro. Eccoci qua. Allora, a Salva Danaio, oggi torno a parlare degli incentivi del governo, oggi ci focalizziamo su quelli per la banda larga, partono le offerte degli operatori. Allora, noi parliamo del nostro sondaggio di calcio, ebbene sì, di calcio ma anche di violenza, perché tiene ancora banco la discussione su questo gesto che ha fatto Totti, no? Francesco Totti, dopo il derby, il doppio pollice verso, perché dice attenzione laziali, andate in Serie B. Si è discusso se andasse o no squalificato. Noi vi chiediamo questo: andava secondo voi squalificato, è stato un gesto sbagliato oppure no? È stato solamente multato. Lui oggi dice sono stato anche multato e anche troppo, poi ha chiesto scusa dopo la partita. Pare che oggi ci sarà un'intervista alle Iene nella quale dice ma no, mi stavo solo indicando la marca delle scarpette. Questa è bella, questa è bella. Vabbè, comunque parliamo di calcio, gesti anche dei giocatori. Ieri c'è stato anche un gesto di Balotelli dell'Inter, che ha gettato la maglia in campo, si è rivolto contro i tifosi, insomma. Ma noi parliamo di Totti soprattutto. Nella nostra domanda, andava secondo voi squalificato? Sì o no? Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano. Sergio Marchionne presenta oggi il nuovo piano industriale della Fiat e da oggi il gruppo avrà John Elkann come nuovo presidente. Ieri infatti a sorpresa ha lasciato Luca Montezemolo dopo 6 anni. I rapporti tesi nel PDL. Non ho intenzione di togliere il disturbo né di stare zitto, ha detto Fini, che prepara la sua corrente interna al partito. Domani il confronto con Berlusconi nella direzione del partito. Vi ricordo che ne parlerà tra l'altro Oscar Giannino a partire dalle 9. Per lo sport, la Champions League, impresa dell'Inter che ha battuto 3-1 il Barcellona San Siro nell'andata delle semifinali, ma scoppia un nuovo caso Balotelli che litiga coi tifosi, getta via la maglia ed esce da San Siro scortato. Stasera l'altra semifinale di andata, Bayern-Lione. E tra l'altro alle 8.34 minuti parliamo anche noi di calcio, anche del caso Balotelli se volete, ma prendiamo spunto il nostro sondaggio, è la vicenda che ancora tiene banco a Roma e non solo, il dopo derby, il gesto di Totti, il doppio pollice verso che insomma ha fatto scatenare anche la rabbia dei tifosi e ha portato a un'ammenda. È il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Vi chiediamo banalmente, secondo voi andava squalificato? Dovete votare su radio24.it o sole24ore.com. Ha preso un'ammenda di 20.000 euro. Voglio intanto salutare Clemente Mimun, buongiorno. Buongiorno. Direttore del TG5, ma qui lo vogliamo in veste di laziale, doc. Sa che oggi andrà in onda stasera un'intervista alle Iene di Totti che dice: ma che, mi stavo indicando la marca degli scarpini, dai, non esageriamo. Tanto le Iene si può considerare una sorta di house organ per Totti. Certo. Dal punto di vista familiare, quella brava e simpaticissima. Quindi va bene così, dice, stemperiamo. No, io non. Per perdonare, diciamo che il derby porta anche a manifestazioni un po' esagerate, no? In questo caso qua, secondo i giocatori laziali, secondo Rocchi, che è una persona che è un bravo calciatore ma anche un uomo vero, Totti è andato al di là dello sfottò. In linea di massima io credo che Totti abbia tanta classe calcistica, ma sul piano dello stile personale è a zero, quindi è una bella immagine costruita attraverso gli spot eccetera, grande calciatore che è caduto più volte in cose che hanno dimostrato che non ha particolare stile, penso agli europei. Da laziale mi dispiace non poter annoverare nella mia squadra un capitano di lungo corso come lui, però devo dire la verità che mi sarebbe dispiaciuto fosse stato squalificato per le prossime partite, perché secondo me può dare un contributo negativo alla Roma in chiave scudetto. Accidente addirittura. Lui è stato un grande campione, ancora oggi è in grado di fare delle giocate incantevoli, ma insomma, noto che per vincere il derby lei ha dovuto toglierlo dal campo. Sì. Quanto ai 20.000 euro per lui valgono mezza giornata di lavoro, quindi. Ranieri ha dovuto toglierlo dal campo, parlando seriamente, così siamo a un paradosso. Reia ha scelto il giocatore che riteneva più freddo per battere il rigore e Slokari ha sbagliato. Sì. Ranieri ha tolto i due giocatori più surriscaldati rispetto al derby e ha vinto la partita. Quindi con la stessa scelta si sono ottenuti risultati opposti. Ma perché dice è andato oltre al gesto? Voglio dire, un derby, lo sa chi mi segue qua, io tengo al Milan, quindi adesso sto anch'io un po' basso perché insomma l'Inter ha fatto una grande partita ieri. Perché è andato un po' oltre questo gesto? Dai, il derby. Credo che sia un problema più legato non alla tifoseria ma ai giocatori che aveva davanti, no? L'avversario. E come si dice, bisogna saper perdere ma bisogna sapere anche vincere. In ogni caso io non sono particolarmente arrabbiato, nel senso che mi sono arrabbiato sul momento, ma credo che se uno dei miei avesse fatto la stessa cosa a parti invertite lo avrei difeso, quindi non ce l'ho con Totti per quello. Mi spiace di più semmai aver visto finire la partita a Toni dopo che aveva spaccato la faccia a Stendardo con un fallo insomma brucia gioco, ancora ma... il derby si sente ancora, non è ancora, non è ancora, non il derby dura tutto l'anno e non finisce mai, certo, per cui infatti io dico la cosa che mi piacerebbe di più è ce ne fosse un altro tra una settimana. Lo so, bisogna aspettare un po'. Direttore, stia con noi ancora qualche minuto, so che poi la dobbiamo liberare, però intanto voglio salutare Carmine Fotia, il direttore del Romanista. Buongiorno, buongiorno. Vedo che da quelle parti si rosica ancora. Vabbè, ma il derby dura tutto l'anno. Saluto anche Fabrizio D'Esposito, del Riformista. Fabrizio, buongiorno. Ieri ha scritto, insomma, un vero campione non si comporta così. Però prima vorrei Carmine Fotia, Romanista. Allora, al di là del vabbè, il derby è finito, io la vedo da Milano, ma so che a Roma non finisce mai, però Totti addirittura ha detto mi hanno dato questa multa perché sono della Roma, addirittura ha ribaltato, mi hanno punito più di quanto dovessi ricevere. Adesso poi naturalmente avremo modo di parlare anche in modo più scherzoso, ma adesso se vogliamo diciamo vedere le cose come stanno frettamente, vorrei sapere perché non è stata presa, avete letto le motivazioni per cui non è stato punito Radu che ha fatto uno sgambetto alla fine della partita a Perrotta che andava a festeggiare sotto la sua curva e che ha scatenato la rissa finale? Avete letto le motivazioni? No, io adesso non le ho, ce le allora, c'è scritto che praticamente c'è stato l'episodio, era un episodio assolutamente da punire, però purtroppo l'arbitro non l'ha visto. Ecco, allora io mi domando, ha ragione Totti, ha perfettamente ragione Totti, è stato punito solo perché è Totti, è un giocatore della Roma, e è stato punito per un gesto che chiunque sia romano, e infatti Di Canio che ha vissuto diciamo i derby con la stessa foga di Totti, perché è romano anche lui, ha detto chiaramente che il gesto di Totti era un gesto che in un derby ci sta. Sì, da ex calciatore. Avete visto che cosa ha fatto Rocchi quando ha segnato? È andato sotto la curva della Roma. Insomma, ci sta, dice, nel derby, dicendo, nel derby no, si facendo fa il gesto con le dita non vincete nulla. Cioè, la Lazio ha caricato questa partita di un significato che andava al di là della partita. Prima del derby, negli spogliatoi laziali c'erano attaccati la foto di Totti col pollice verso i giocatori per caricarsi. Allora lui ne ha fatti due, dice. Ma lui ha fatto benissimo, ma è un gesto di sfottò, ma chi se ne frega? Ma tutti questi soloni incipriati che sui giornali scrivono, ma il gesto della sportività, ma cosa c'entra? Gesto di sfottò. Non è sicuramente... Io ho passato la vita a sfottere e essere sfottuto, ma ragazzi, ma non scherziamo, riprendiamoci una dimensione sana del calcio. Anche l'altra cosa che ha detto Clemente, abbiate pazienza, abbiamo visto tutti la partita. Purtroppo a me dispiace moltissimo che Stendardo si sia fatto male, perché sono delle cose che è brutto, ma si è visto chiarissimo che Stendardo è sceso con la testa per prendere la palla quasi sul piede di Toni. Voi sapete la potenza atletica di Toni, quello stava partendo. Vabbè, dice cose che succedono nel calcio. Massimo, adesso non dobbiamo stare a fare la moviola, insomma, ma discutere in linea generale. Certo che però Fabrizio D'Esposito ieri invece è stato un po' duro, no? Ha sentito, si parla di soloni incipriati, no? Né per solone incipriato né per un campione del politicamente corretto. Tra l'altro non ho nemmeno, diciamo, l'imprinting del solone. Il punto è un altro, e faccio riferimento a quello che ha detto Fotia: il calcio non ha una dimensione sana. Il punto, io lo vivo da tifoso, sono un tifoso del Napoli, per carità, però ci sta tutto lo sfottò se ha una dimensione sana, ma basta vedere quello che è successo dopo il derby dell'Olimpico, e poi qui c'è una specificità tutta romana che però non sarà legato al gesto di Totti, un calcio ridicolo dove noi diamo una squalifica, un'ammenda a chi pronuncia delle frasi, andiamo a vedere il labiale, abbiamo assistito a delle scene ridicole, a risalire quello che ha detto, la bestia, poi di fronte a gesti così plateali, come ha ricordato anche Fotia, quello di Radu e quello di Totti, noi facciamo finta di nulla e poi esasperiamo gli animi, perché bisogna dirlo, cioè non è uno sfottò. A Roma, io vivo a Roma, vivo a Testaccio, ho avuto i tifosi della Roma fino alle 2 di notte sotto casa a festeggiare, ho assistito anche, diciamo, con gioia a vedere queste scene. Il punto è un altro, il punto è che oggi il calcio è una guerra, i tifosi del Napoli non hanno potuto fare delle trasferte per un anno, per incidenti molto meno gravi di quelli che ho visto a Roma. Allora, io però, D'Esposito, no, vorrei su questo, perché il calcio è una guerra. Vorrei il parere, nel salutarlo e ringraziarlo anche di Mimoun, direttore del TG5, perché poi leggerò quello che è apparso oggi sulla Gazzetta, un'intervista delirante, anzi la leggo subito, così Mimoun le do spunto, insomma, per commentarla. Sulla Gazzetta è stato intervistato, avete visto quel ragazzo che si teneva la gola perché era stato accoltellato alla gola, tifoso della Roma, Maximiliano, intercettato dalla Gazzetta e nel letto d'ospedale, dice: che pensi dei tuoi aggressori? Potevo morire, ma allora dovrei dire che sono degli infami, dei pezzi di merda. Allo stadio le coltellate si prendono e si portano a casa. E perché ti trovavi lì? E che te lo vengo a dire a te, dice il giornalista. E ci tornerai allo stadio? E come se ci tornerò? Ma tu sei di qualche gruppo organizzato? La conversazione finisce qui. Ecco, allora, Mimoun, non voglio mettere o dobbiamo metterle insieme le due cose. Cioè, dice D'Esposito, il calcio è una guerra e quindi non bisogna fare minimamente gesti che acuiscono questo. Io non sono molto d'accordo. No, io, guarda, il calcio è una dimensione complicata, perché le partite vengono caricate di significati che vanno oltre la posta in gioco, cioè ci sono delle tensioni sociali che si scaricano, come è noto, come si dice, da 30 anni, da 50 anni. Negli stadi, dove c'è la politica, dove c'è tanta altra roba. Il ragazzo che ha parlato è un ragazzo assolutamente, evidentemente, esagitato, e probabilmente è bene che i genitori si occupino di lui da vicino, da presso. Per quanto riguarda la vicenda Totti e la vicenda Radu, penso che tutto vada ricondotto a un derby che ha delle logiche che non ha molte logiche. Il derby è lo storico, il derby può essere anche uno sgambettino che non dovrebbe determinare la guerra civile. Quello che resta per quanto riguarda il tifoso laziale è il dispiacere di aver perso un derby ingiustamente e la difficoltà che questo crea da qui alla fine del campionato in chiave salvezza. Per il resto, io l'unico obiettivo che ho da laziale è quello di andare presto un altro derby e poterli battere e inventare uno sfottò più divertente di quelli di Totti, che spero non verrà ricordato più per gli spot pubblicitari che per quello che ha dato al calcio italiano. Allora, io la saluto e grazie a Clemente Mimoun. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, bianco o nero, i colori della Juve. Abbiamo Maradona nella sigla, io tengo al Milan. Abbiamo il direttore del Romanista, abbiamo avuto un laziale, abbiamo D'Esposito del Napoli. Che volete di più? Allora, manca qualche interista, ma si sa, che dove? Accontentatevi di aver vinto. Antonio da Milano, buongiorno. Lei, Antonio, tiene all'Inter? Come scusi? Tiene all'Inter? No, io guardi, non tifo nessuno. Ah, va però bene. Per quanto riguarda Totti, non scherziamo, la ammenda non gli va data. Ci sono professori che per distrazione consentono alcune cose che non vengono in pratica ammendati, e adesso stiamo qui a discutere sul fatto che un calciatore debba essere ammendato per un gesto. Ma guardi che c'è gente, l'allenatore della Lazio ha detto dovrebbe essere squalificato 10 giornate. Vabbè, parlava forse, insomma, botta calda, no? Era arrabbiato. Mi faccia permettere questa provocazione. Allora, secondo me Totti dovrebbe essere premiato, ok? Perché sì, certo, perché guardi un po' il dibattito che ha scatenato. Il calcio è un intrattenimento. C'è gente che qui in Italia vive praticamente per il calcio e Totti con questo suo gesto ha alimentato questo dibattito, e quindi in questo senso, dal punto di vista dell'entertainment, dovrebbe essere premiato, secondo me. Va bene. Ovvio, una provocazione. No, provocazione, ma ci sta bene. Grazie Antonio. Andiamo a Roma. Cristian, lei della Roma, della Lazio? Sono della Roma, bene. Buongiorno. Dica. Però mi ritengo sportivo. Che c'è? Non sono in conflitto le due cose. Io vorrei sapere perché vengono utilizzate due unità di misura per giustificare un gesto di un giocatore laziale che a fine partita va a dare un calcio a un altro giocatore che sta andando a festeggiare e non viene, cioè, viene considerato un gesto così un po' gagliardico, quando il gesto di Totti invece pollici in giù viene considerato un gesto così. Il gesto anche di Rocchi, che l'ha fatto sotto la curva sud, come per dire non vincere niente. Cioè, lei è d'accordo con Totti, cioè dire sono stato punito più io anche degli altri. Ma negli anni precedenti è stato addirittura con la maglia più appurgata ancora, quello penso che era forse più evidente di questo qui che ha fatto. Allora sentiamo, no vabbè Cristian, devo andare un attimo a Carmine Fotia perché lì, allora direttore del Romanista, però Fotia replichi a Desposito che dice il calcio è una guerra, non bisogna fare gesti, e mettiamoci anche il caso di ieri Balotelli, non so se ha visto allora. Balotelli si è tolto la maglia, l'ha buttata, pare che abbia dato dei figli di, insomma, al pubblico. Allora, prima non avevo intenzione di mettere Fabrizio tra i Soloni incipriati, ma adesso ce lo metto perché se l'è tirata, lo dico con amicizia, con affetto, insomma, voglio dire, grazie direttore, lo stesso anche nella discussione, no, se no sì. Allora io dico, a me sembra molto molto grave collegare qualcosa che, come diceva giustamente Clemente prima, nel calcio ci sta e lo sappiamo tutti che ci sta la violenza, che nasce da ragioni che sono extra calcistiche, c'è un disagio sociale, un disagio anche psicologico, umano, che si riversa negli stadi, un'assenza di valori che si riversa negli stadi, va bene? Possiamo rispondere a questo chiudendo gli occhi, immaginando che gli stadi possano essere dei luoghi di educande, che si parlano con, diciamo così, il fiore in mano, oppure pensare di far vincere nella sportività l'agonismo, e nell'agonismo ci sta anche lo sfottò, e finirla lì. Cioè non le è piaciuto il collegamento, insomma, che in qualche modo Desposito fa con quelli che si sono accoltellati fuori dagli stadi? Si sarebbero accoltellati se qualsiasi gesto avesse fatto, se Totti avesse fatto il gesto di inchinarsi con amore verso i tifosi della Lazio, avrebbero fatto lo stesso. Quindi quella violenza va perseguita, va colpita, vanno isolati, ma non si possono collegare le due cose, altrimenti noi siamo noi che giustifichiamo quegli scellerati che vanno. Vediamo un po' Desposito su questo, perché questo non tanto un collegamento, anche lei ieri ha detto, io voglio la stima di Carmine, perché ha detto anche una cosa giusta, è vero. Non bisogna collegare le due cose, io lungi da me ritenere Totti il mandante morale degli incidenti. Ritengo però, proprio da tifoso, che anche provocare il rodimento, come ha detto prima Carmine a proposito di Mimun, vada bene, cioè rientra in una dimensione sana dello sport. Però mi sembra, vedendo l'escalation degli ultimi anni, cioè io vado allo stadio e molte volte non vado in tribuna stampa, mi tocca acquistare il biglietto. Oggi entrare allo stadio è diventata una cosa impossibile, bisogna passare dei filtri, bisogna acquistare il biglietto, bisogna presentare la carta d'identità, non è più una festa. Io qui prima ho vissuto il derby, appunto, una lunga settimana qui a Testaccio, ho sentito ricordi di tifosi sia laziali sia giallorossi che andavano allo stadio insieme. All'Olimpico ancora non c'erano le curve che c'erano fino in fondo, si mangiava insieme, si beveva il vino. Oggi è veramente diventato impossibile. Si va, ma questo che vuol dire? Cioè che purtroppo la società è peggiorata, cioè che dobbiamo fare? Quindi il calciatore deve andare in campo sapendo. Secondo me deve avere soltanto una responsabilità maggiore. Io penso, ecco, non voglio, ripeto, passare per il campione del politicamente corretto e dire Totti va squalificato e tutto, però in una dimensione in cui puniamo il labiale dei calciatori, magari Totti poteva avere un gesto, ecco, lo ritengo un gesto superfluo. Io credo che per i romanisti basterà vedere all'infinito la scena del rigore sbagliato magari da Floccari per trovare gioia e vedere e fare degli sfottò. Dice, non serviva questo. O forse è troppo superfluo rispetto alle tensioni dell'ambiente. Non dimentichiamo che il derby è stato anticipato di 2 ore alle 18:30, poi comunque è una decisione che io ho compreso a metà. Posso capire che bisogna giocare di giorno, però comunque la partita è finita che era già buio. E già oggi c'è il dibattito, mi pare, sull'anticipo della prossima. Sì, sì, si anticipare anche quello, ma purtroppo poi sì, vabbè, magari si di ordine pubblico, ecco. Sì. Roberto da Trani, vediamo se riusciamo a concludere con Roberto. Buongiorno. Ma io credo che sia un problema di fondo. Noi stiamo cercando di pensare che il calcio deve essere una guerra tra bande rivali. No, vabbè. Finché non entriamo in questo, finché noi giustifichiamo. E per me, per lei, per Fotia, per Desposito, per Mimun, non per tutti purtroppo. Ma finché noi entriamo in quel, cioè non si combatte stigmatizzando, cioè vedere la gente, io invidio al calcio inglese, al di là delle squadre, il fatto che un giocatore fa il gol e si butta, abbracciate i tifosi e torna nel campo, come accade nei campi di pallavolo, perché non ci sono le divisioni. Però gli inglesi in passato hanno combinato altre cose, ma lì c'è stata forse una politica più repressiva. Però insomma, Roberto, a lei piace dire il calcio è uno sport. Fotia, io devo chiudere, ho 20 secondi, che dici? Qua siamo solo censori, dico, guardi che nel sondaggio vincono però sì, deve essere squalificato al 61%. Vabbè, ma chi se ne frega, insomma, vabbè. Contro Roma e i romanisti, no, c'è un antico pregiudizio, quello che voglio dire di votano da tutta Italia, ecco. Sì, sì, vabbè, dica. C'è in tutta Italia, ma quello che voglio dire è semplicemente questo, che proprio se vogliamo combattere la violenza nel calcio dobbiamo esaltare anche quei momenti in cui la violenza si esorcizza con uno sberleffo, con un'ironia, ma quante ne abbiamo subite e quante ne subiremo in futuro, cioè è così, voglio dire, sdrammatizziamo, diamo a ogni gesto il suo valore. Ma io sono d'accordo, assolutamente. Questo è il punto. No. Perché poi, come dire, il calcio, il tifo è fatto di persone normali, noi dobbiamo essere con la stragrande maggioranza, quei milioni che devono poter tornare allo stadio con le famiglie, a scolare la pasta nello stadio, e il mio giornale è impegnato in prima fila su questo, vorrei essere chiaro, in questa battaglia contro la violenza negli stadi. A questo certo, grazie a tutti. Lo sfottò, una cosa che vada contro la violenza, non a favore. Mi devo fermare, grazie a tutti davvero, con Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea a Oscar Giannino, politica, le tensioni del PDL, questo è il tema oggi di 9 in punto e noi ci sentiamo domani, bianco o nero e tra di 24.it.